Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamate informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora, 1359 in onde medie di frequenza, questo è Radio Wombat, siete sullo spazio della stampa rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio, nella quale con particolare frequenza e con particolare intensità e ricorrenza ci dedichiamo alle due vertenze popolari che animano ormai da anni l'area metropolitana fiorentina, quella contro l'inceneritore di Firenze o, per la precisione, Case Passerini, e quella contro la costruzione di un vero e proprio nuovo aeroporto al posto dell'attuale aeroporto di Peretola. Questa settimana, anzitutto, le mie scuse per aver saltato la puntata precedente, ma proprio per l'appunto, per la connessione, per lo svolgersi di due manifestazioni che si sono susseguite, quella del 30 marzo e quella del 31 di marzo, andiamo a spostare e a dedicare a quello che sarà l'oggetto, diciamo, della trasmissione di oggi, l'oggetto propriamente detto, che è appunto la manifestazione del 30. Noi ce ne siamo occupati da questi microfoni già molto, con le dirette, con altri commenti raccolti durante la manifestazione, ma a me, che un po' per vocazione di quello che è il nostro spazio radiofonico della stampa rassegnata, che benché nel tempo abbia cercato un po' anche per non annoiarvi con la mia voce di aprire a interviste, a contributi, a voci, delle vertenze, delle lotte, delle situazioni che formulano critiche, proposte e opposizione nella nostra area metropolitana, però resta comunque una trasmissione che è legata in qualche modo anche ad uno sguardo alle cronache e ai giornali. E appunto è per questo che siamo qui, per dedicare questo spazio radiofonico alla stampa che ha preceduto la manifestazione del 30 di marzo e alla stampa che ha seguito la manifestazione del 30. Quindi abbiamo alcuni articoli presi dalle cronache locali, i giornali che fanno cronaca locale non sono moltissimi nella nostra area metropolitana, per cui Nazione, per cui Repubblica, per cui Corriere Fiorentino, questi sono i giornali che prendiamo in esame. A volte abbiamo anche delle difficoltà banalmente umane legate al reperimento degli articoli, e quindi oppure dall'altra parte non sempre è utile utilizzarli tutti, ma insomma questa è un po' la situazione, e quindi vorrei con voi dare uno sguardo e una lettura agli articoli di questi giorni, quelli del prima e quelli del dopo, tenendo fermo un dato, direi, importante dal quale partire, cioè quello della manifestazione come una manifestazione che è riuscita, essendo anche parte degli organizzatori e delle organizzatrici di queste vertenze, di queste lotte e nello specifico della manifestazione del 30, diciamo che il commento, anche se non c'è stato ancora un momento, una restituzione, un incontro formale di tutti gli organizzatori, più di quello che non è avvenuto durante e dentro il corteo stesso, però l'impressione condivisa è che la manifestazione sia andata oltre la sufficienza, diciamo così. Chiaramente, come ho detto all'inizio della trasmissione, era una manifestazione che si misurava certamente per obbligo e per forza anche con la partecipazione popolare e con una verifica dei numeri. Noi crediamo che non ci siano state meno di 7-8 mila persone mobilitate nella giornata del 30 di marzo, lo diciamo credo a ragion veduta, perché in un percorso che chi c'era lo sa e l'ha fatto, si partiva dal polo scientifico di Sesto per andare verso lo Smannoro, girare poi su via Pratese e arrivare passando dentro l'abitato di Peretola, finire il corteo corteo nel Pratone di fronte all'aeroporto. Un percorso lungo, perché erano oltre 5 km, un percorso forse ancora più che lungo, complicato da aspetti logistici, sono magari banalità, però in questo modo restituisco anche in parte il dibattito, le discussioni che ci sono state dentro le realtà di movimento e che ci hanno portato alla scelta stessa di questo corteo e di questo percorso. Quindi dicevo, difficoltà logistiche, soprattutto legate ai mezzi pubblici, in qualche modo una rappresentazione anche plastica di quelle che sono le difficoltà della mobilità all'interno della piana, della mobilità soprattutto di tipo pubblico. Pensate che avevamo pensato di organizzare dei bus navetta che permettessero un rientro efficace e il più possibile comodo per i manifestanti a fine manifestazione, cioè dall'aeroporto, diciamo, da Viale Luder, quindi di fronte all'ingresso dell'attuale aeroporto di Pretola, per ritornare al polo, ma ci siamo scontrati con delle difficoltà non da poco, prime tra tutti il fatto che per esempio ATAF non ha fermate dentro il polo perché sono invece appaltate a linea, e quindi l'ipotesi poi dei bus ci avrebbe costretto a far scendere nuovamente le persone più o meno all'altezza della COP, quella che era Ipercop, che ora è COP, a Sesto Fiorentino, per chi è meno pratico, diciamo quella nella quale si trova anche il Decathlon, dovrebbe essere un'indicazione abbastanza utile tenendo conto, insomma, insomma, di quanto è conosciuto questo marchio, e quindi insomma abbiamo optato poi per evitare di spendere diversi soldi per un servizio che non sarebbe stato comunque particolarmente efficiente, e quindi insomma il ritorno era affidato un po' alla buona volontà e alla capacità di ognuno. Abbiamo avuto persone che sono partite dal polo e a un certo punto sono tornate indietro proprio per questa difficoltà di rientrare, mentre abbiamo avuto persone che hanno aspettato la manifestazione all'arrivo, altre che l'hanno percorsa per detratti senza né partire né arrivare, soprattutto chiaramente nella zona più o meno dell'abitato di Peretola, nella quale era, insomma, siamo passati all'interno dell'abitato storico, e quindi si prestava per chi era lì ad aspettare la manifestazione e poi eventualmente a ritornare in casa. Eppure, nonostante il percorso fosse lungo e scomodo, come ho detto, una manifestazione che sicuramente è riuscita, e i numeri appunto che abbiamo dato da fine corteo, incrociando le impressioni, l'esperienza dei compagni e delle compagne che maggiormente negli anni hanno acquisito quella capacità di contare i numeri, perché d'altronde non è che è una cosa che si fa dando un ticket all'ingresso della manifestazione, facendoli passare per un tornello, per cui no, cioè, ognuno ha il suo numerino e ci si conta. I conti sono sempre in funzione del colpo d'occhio, della capacità di contare. Ci sono degli espedienti che vengono utilizzati, quali per esempio abbiamo utilizzato anche noi, cioè quello di contare il numero di persone che passano, insomma il minutaggio di quanto dura il passaggio del corteo all'interno di una strada, insomma sono dei piccoli escamotage, e certamente andavano messi un po' tutti in campo, anche perché la zona nella quale ci andavamo a manifestare l'avevamo attraversata già un'altra volta, quando manifestammo sia nel 2015, mi pare, se mi potrei sbagliare, insomma, sia nel 2015 che nel 2016, sempre nella vertenza sia contro l'inceneritore che contro l'aeroporto. Una manifestazione quindi importante, e della quale cosa resta nella cronaca locale? Nella cronaca locale non diciamo che c'è stata una congiura del silenzio, che a volte è uno degli strumenti con cui la controparte, il sistema di potere, il sistema politico mette in sordina certi avvenimenti. Non c'è stato proprio una congiura del silenzio, però sicuramente non gli è stato dato alcun particolare rilievo. Le notizie che sono apparse sono tutte relegate nella cronaca locale, e anche dalla cronaca locale non abbiamo meritato la prima pagina delle cronache locali di alcun giornale. Gli articoli hanno ricostruito, direi tutto sommato con onestà, quella che è stata la giornata, senza particolari distorsioni, se non che un dispositivo che in qualche modo è scattato è un po' quello del primo piano e dello sfondo, per cui in primo piano abbiamo le dichiarazioni dei sindaci, la partecipazione dei sindaci e diciamo un po' in qualche modo la più superficiale polemica politica. Invece resta un po' a fare da sfondo, non è stata cancellata la manifestazione, però come ho detto, ecco, fa da sfondo colorato, da sfondo folcloristico, ma in primo piano negli articoli della cronaca locale vengono certamente le dichiarazioni dei giornali, le dichiarazioni dei sindaci. Teniamo conto che appunto che l'elemento della partecipazione dei sindaci, che ripeto nel ragionamento, nel tentativo, appunto nell'esperimento se vogliamo anche politico fatto dai comitati e dai movimenti, è stato una cosa senza precedenti nella piana fiorentina, però è stato un tentativo che credo e abbiamo creduto legittimo, tenendo conto appunto del fatto che, come è notorio, o se non lo è lo diciamo sempre perché è giusto ribadire le cose, i comuni della piana fiorentina sono stati estromessi da ogni, sostanzialmente da ogni decisione in merito al progetto di nuovo aeroporto fiorentino, e sono stati esclusi anche dalla partecipazione all'osservatorio ambientale, uno di quegli organi che dovrebbe sorvegliare, dovrebbe verificare il corretto svolgimento del progetto, e insomma anche da un organismo che, come in molte altre situazioni è successo, succede e succederà, è già di per sé molto limitato, perché parte dal presupposto che il progetto si realizza, però anche da questo organismo, che avrebbe certamente comunque dei limiti intrinseci, comunque questi comuni sono stati esclusi. Sono stati esclusi i comuni di Sesto, sono stati esclusi i comuni di Campi, di Calenzano, di Poggio a Caiano, di Carmignano, di Prato e di Signa. Di tutti questi sindaci che fino a almeno un annetto fa avevano tutti impugnato un ricorso, o meglio dei ricorsi al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, restano invece ad oggi solo 6 di questi 7 che ho citato, perché il comune di Signa, attraverso il suo primo cittadino, il sindaco Cristianini del Partito Democratico, sindaco peraltro uscente, ma insomma ha fatto veramente carte false per ritirare il ricorso il giorno prima della manifestazione e diciamo incassare quella che secondo lui è una vittoria e una lungimirante azione politica, quella di aver concordato il passaggio di un ponte in cambio dell'accettazione all'interno del proprio comune di una delle tante compensazioni ambientali legate allo sbancamento che il passaggio della nuova pista nell'area delle oasi di quel tratto di piana comporterebbe. Praticamente il lago di Peretola, tra l'altro un lago su cui c'è ancora un vincolo come bene culturale, scusate, un artistico, culturale e paesaggistico molto forte, verrebbe piallato per il passaggio della nuova pista e dovrebbe essere ricostruito ex novo nella zona di Signa. Il sindaco ha accettato questa compensazione nel proprio territorio, all'interno dei limiti e dei confini del proprio comune, e però in cambio ha preteso da Toscana Aeroporti e dalla Regione Toscana che si firmasse, mettendo nero su bianco, un accordo per la costruzione di un ponte che questo argomento, insomma, del ponte, del rapporto tra Signa, aeroporto e mobilità, lo potete ritrovare anche in alcune nostre trasmissioni precedenti, anche trasmissioni della Stampa Rassegnata, soprattutto un'interessante intervista fatta con un attivista del comitato di Signa, Manuela, che abbiamo appunto fatto tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, insomma la potete ritrovare, e è legato proprio a questo, questa esigenza di mobilità automobilistica per lo più all'interno della piana, quindi tra Signa, la Strassigna, l'indicatore Campi, insomma un tracciato che da anni gli abitanti di Signa aspettavano e che però diventava impossibile proprio per l'accettazione di questa compensazione ambientale. Quindi il sindaco di Signa ha praticamente firmato questo accordo che ha messo nero su bianco la possibilità di realizzare un'altra tracciato, un altro tipo di superamento dell'Arno in quel tratto, tutto da vedere, ancora tutto da stabilire, ancora tutto da discutere, e proprio in ragione di questa possibilità, che ancora però non è realtà, diciamo che la firma del sindaco di Signa è subordinata alla realizzazione di queste opere. Certamente la cosa è molto complicata e molto fumosa, anche perché per l'appunto il sindaco di Signa in conferenza dei servizi ha dato parere favorevole al progetto di master plan, credendo o confidando che verranno mantenute queste promesse. Nel caso in cui queste promesse non dovessero essere mantenute, diciamo che sarebbe il sì in conferenza dei servizi verrebbe annullato, ma capiamo tutti bene quanto già un no di un comune conta poco, e poi quanto va a contare un sì che si annulla perché non sono state mantenute delle promesse. Diventa davvero una situazione ridicola, ma insomma questo è stato l'operato del sindaco di Signa. Noi lo abbiamo commentato più volte e continuiamo a commentarlo come uno scambio politico veramente ridicolo, veramente a perdere, e l'accettazione, come ho detto, di questa compensazione ambientale ha propriamente dell'assurdo, perché come si può compensare un ecosistema come quello di un lago, che non è solo un lago ma è anche un'area umida dove ci sono insomma delle specie protette, dove soprattutto passano gli uccelli migratori di pregio della piana, come appunto i fenicotteri che molte volte abbiamo visto e sono diventati in qualche modo anche uno dei simboli di questa lotta, e ai quali vorrò vedere se sarà il sindaco o chi per lui, quale altro funzionario andrà a spiegare che c'è stato uno spostamento del laghetto e insomma quant'altro. Questo è un po' la situazione di Signa. Quindi insomma questi comuni, che erano 7 e sono però rimasti 6, sono di fatto stati estromessi. E ovviamente l'estromissione dei sindaci non va letta meramente come un'estromissione dei primi cittadini, ma come in modo più profondo e ancora più veritiero, come un'estromissione di tutte le comunità che da essi sono rappresentate. Certamente se si estromettono i sindaci e le istituzioni, figuriamoci qual è il livello di, diciamo, democraticità dell'opera e di ascolto che si fa dei cittadini, degli abitanti dei comuni della piana. Su questo, appunto, proprio perché c'è stata anche in qualche modo della facile ironia da parte dei proponenti il progetto di Toscana Aeroporti, del presidente Roberto Naldi, che soprattutto poco prima del corteo ha lanciato una frecciata diretta proprio al sindaco di Prato. Molto probabilmente l'ha lanciata nella direzione del sindaco di Prato Matteo Biffoni, perché non si aspettava forse un tradimento, o forse sperava che rientrasse nell'alveo di un controllo politico e di una maggiore compatibilità, benché, come si sa e come ho detto, anche il comune di Prato ha fatto il suo ricorso. Insomma, i sindaci c'erano praticamente tutti i sindaci di questi comuni, fatto salvo per il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, che era insomma impegnato in un altro avvenimento e che però ha mandato una sua assessoressa un'assessoressa della sua giunta in rappresentanza del suo comune. Hanno avuto tutti, direi, un ruolo abbastanza rilevante dentro la manifestazione, hanno parlato anche dal palco con sfumature diverse. Appunto, per esempio, l'assessoressa del comune di Campi non ha parlato, ma forse anche per ragioni in qualche modo personali, d'altronde indossando la fascia e pur essendo rappresentanti sono sempre persone. Ma quello che ha avuto un ruolo diverso dagli altri è stato poi il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per l'appunto, a sottolineare la propria diversità o in qualche modo disomogeneità rispetto agli altri sindaci presenti. Il sindaco Biffoni è arrivato al concentramento al polo scientifico, ha fatto le sue interviste alla stampa locale, che certamente proprio per l'imbocco polemico che era stato fatto da Roberto Naldi e che ora vi renderò conto anche attraverso la lettura dei giornali in maniera più precisa, ha fatto insomma le sue dichiarazioni e poi se n'è andato senza neanche seguire e partecipare al corteo. Gli altri invece, il sindaco Falchi di Sesto Fiorentino, l'assessoressa del comune di Campi, il sindaco di Carmignano, il sindaco di Poggio a Caiano, hanno invece il sindaco di Calenzano, anche Biagioli, che è uscente, ma insomma c'erano anche quelli che insomma, all'interno della sua coalizione si candidano in qualche modo a sostituirlo, hanno invece partecipato a tutto il corteo, chi con la fascia tricolore, chi senza, e poi hanno pure parlato dal palco, quindi hanno certamente avuto un ruolo che però per chi ha manifestato, per chi è stato presente alla manifestazione, per chi ha avuto la pazienza o la curiosità di andare a guardare le cronache, i video racconti che abbiamo fatto circolare, fatti non da nessun comitato ufficiale, ma da singoli attivisti e attiviste, persone che si misurano insomma anche con i media, si vede che il loro ruolo all'interno della manifestazione non è sproporzionato in questo senso. Quindi l'esperimento, il tentativo di tenere insieme la sacrosanta, insomma, rivendicazione da parte dei primi cittadini e dei livelli più bassi delle istituzioni di farsi ascoltare e di non essere estromessi dalla programmazione e dalla pianificazione territoriale, di farlo marciare insieme all'interno di una mobilitazione popolare nella quale però il protagonismo e la testa fossero quelle dei comitati, dei movimenti, diciamo in qualche modo in rappresentanza degli abitanti, dei lavoratori, delle classi subalterne della nostra area metropolitana, direi è abbastanza stato bilanciato e non ci sono state più di tante strumentalizzazioni, benché, come ho detto, la stampa abbia essenzialmente parlato di loro tenendo la manifestazione più che altro sullo sfondo. Allora, con questo, insomma, possiamo, se vogliamo, andare alla nostra prima pausa musicale per poi riprenderci con gli articoli propriamente detti per dargli un'occhiata insieme. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo. Il poco riposo mi rende nervoso e mi chiedo se rimarrà solo la polvere nelle mie mani. Il risultato sarà correre su delle navi. I figli di puttana fanno saltare i miei piani. Loro ci vogliono trattare da poveri schiavi. E chi sogna l'America più lontana, come un secolo fa il sangue dei nostri avi. Dimenticati dal padre eterno, brucia qua l'inferno. E chi non sta mai fermo è perché stanco dentro. E camminando a testa alta, ascoltando la voce del vento, avrà fatto cento. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento. Parlo a nome di una generazione che qui non ha più niente ed è costretta a dipendere sempre dalla gente. Andare via fino a Suma con la mente di giù, rimane solo il vento a noi artisti, sempre di più. Con la valigia in mano vaghiamo, una nazione che non dà opportunità o valore a quello che inventiamo. Non ce la facci più, 30 anni in mezzo a sta merda, ma mi rimbocco le maniche fra e ricominciamo. Se credi che da grande ragioni così, allora ragazzino tu non hai capito un cazzo, ti aspettavo. E per la prossima fine del mondo, come dici, un vecchio saggio, io speriamo che me la cavo. Guarda la gente quando sento vienta, coppa pelle la torre, le cose fa l'anima e che la cattiva chiama varietà, sensibilità per l'aria interna carica. Vorrei capire adesso il tempo che ho a disposizione per confessare i miei peccati a quanti no signore. Che la cattiva chiama varietà, sensibilità per l'aria vienta per l'anima. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, c'è rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce chi intenda niente, mentre a parte ne pasti me, c'è rimana soltanto vieni, oh vieni. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo. Come Troisi mi rende nervoso e poi mi chiedo quando le storie finiranno sempre le stesse. Il tempo mi passa davanti, FS. Scaglio l'ultima pietra, tra peccatori ci capiamo. E voi benvenuti al sud, ma ve lo spieghiamo. Porto una croce come Gesù Cristo sul Calvario, è quella di essere italiano. E sai come mi chiamo, bravo. Le persone che mi apprezzano per quel che sono, perché a volte non c'è un prezzo per quel suono. Le mie idee continueranno a viaggiare con la voce del vento di chi non ha nulla e che sa cantare. Ma senti, son ca voce chi intena niente, mentre parte nei pasti mente, c'è rimane soltanto vient, o vient. Ma senti, son ca voce chi intena niente, mentre parte nei pasti mente, c'è rimane soltanto vient, o vient. Ma senti. Ma siente, son ca voce chi intena niente, mentre a parte nei pasti mente, c'è rimana soltanto vient, o vient. E allora 1359, questo è Radio Wombat, lo spazio radiofonico della stampa rassegnata. Rientriamo in voce dopo questa pausa musicale che spero vi sia piaciuta. Se ci avete incontrato adesso, ci avete trovato per caso, stiamo parlando con particolare riferimento della manifestazione del 30 di marzo che si è svolta nella Piana Fiorentina con un lungo percorso, un lungo corteo che dal polo scientifico di Sesto è arrivato fino all'aeroporto, all'ingresso dell'attuale aeroporto di Peretola, per dire no al nuovo aeroporto, sia al parco, sia ad un ridimensionamento drastico e subitaneo dell'attuale aeroporto di Peretola, che comunque è già fortemente impattante, soprattutto dal punto di vista del rumore sopra le teste e con sorvoli a bassa quota sopra le teste degli abitanti dei quartieri di Brozzi, di Peretola, di Quaracchi e anche delle piagge. Stavamo parlando di questo, ci eravamo lasciati con una mia in qualche modo lunga introduzione e ripercorrimento, si dice così, me lo passate come licenza poetica, della manifestazione. Ora, più nello specifico, volevamo guardare insieme alcuni giornali. Dal Corriere Fiorentino del 29, quindi la stampa prima della manifestazione, che dice: la Piana in corteo contro l'aeroporto, non siamo la discarica di Firenze. Da Sesto al Vespucci in marcia anche i ragazzi di Fridays for Future. Questo è titolo e sottotitolo dell'articolo, che diciamo segue un po' il tentativo di una conferenza stampa che abbiamo fatto, anche se riuscito sempre, come oggi d'altronde riescono le conferenze stampa, in un contesto in cui insomma le voci dissonanti contano sempre meno e ben poco, e questo è un po' quanto, però l'articolo c'è. E arriveranno anche gli amici di Pisa per la manifestazione di domani pomeriggio contro no aeroporto, sia al parco per tutti, che si terrà al polo scientifico di Sesto Fiorentino. Vado più avanti, una manifestazione che ha avuto l'adesione dei comuni di Sesto, Campi, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato e anche di Fridays for Future. Interessante che vuoi notare che Friday for Future viene messo dopo i sindaci, quindi un po' come a dire che la gente conta il giusto, però quello che è più rilevante a livello istituzionale e il fenomeno del momento, se così lo possiamo definire, Friday for Future, sono messi insieme come diciamo i VIP. Ovviamente quello che ho detto non ha nessun intento né polemico né di sminuire Fridays for Future, che invece è un, diciamo, un movimento nascente, come più o meno sapete, per chi non ne sa niente può riguardare una precedente trasmissione che io stesso ho fatto, ma i ragazzi, le ragazze, i giovani di Fridays for Future sono passati da questi microfoni in più forme, anche da Radio Contado, anche attraverso Fuoco alle Polveri, insomma in qualche modo anche la nostra radio ha tentato di intercettare e di connettersi con questo movimento nascente, e quindi insomma niente, non volevo in nessun modo sminuirlo, anzi dire che è stato un nostra cura e nostro obiettivo cercare, più che avere l'adesione alla manifestazione, che pur c'è stata e certamente molto importante, più che altro abbiamo cercato di far capire qual è la posta in gioco nella Piana Fiorentina anche dal punto di vista del contributo di quella che sarebbe quest'opera, al mutamento climatico e a tutto quello che sta succedendo in termini di devastazione ambientale e crisi ecologica veramente planetaria. Non si pone solo un problema, come spessissimo e sempre abbiamo detto e ribadiamo, di soldi pubblici, di uso delle risorse collettive, non si pone solo un problema di democrazia su chi decide, su chi ha il potere di pianificare e programmare il territorio, ma si pone propriamente un problema ambientale e di, insomma, che ha un impatto certamente planetario. Questo l'abbiamo detto tante volte descrivendo questo progetto, che non è un banale spostamento della pista, come è diventato una delle narrazioni in voga da parte del sistema di potere, che negano diciamo, le esigenze di espansione e di aumento del traffico passeggeri e di voli. Eppure l'aumento traffico passeggeri è stimato con l'obiettivo dei 4 milioni e mezzo di passeggeri, teniamo conto che ora siamo a 2 milioni e mezzo, quindi praticamente 2 milioni di persone in più almeno, e l'aumento dei voli, che ad oggi sono circa 30.000, 29.000 e rotti nell'aeroporto di Peretola, e che stime, direi cautelative, fatte dall'ARPAT parlano di 45.000 voli, mentre su alcuni articoli della stampa, come abbiamo tante volte detto e diciamo sempre nelle nostre assemblee informative, si è parlato anche di 55.000, 58.000, e comunque numeri che non possono essere derivati in maniera meccanica dalla costruzione della nuova pista, perché sugli aeroporti appunto operano compagnie private e quindi in base alle oscillazioni del mercato, in base a molti fattori, le compagnie possono portare più o meno aerei. Diciamo, per dirlo ancora un'altra volta, perché diciamo il calcolo crediamo sia impressionante, ma impressionante nel senso realistico del termine, con 45.000 voli all'anno e un orario di esercizio che va dalle 6 della mattina alle 23 della sera, avremmo praticamente, facendo una banale divisione che ognuno di voi può fare per verificare perché può sembrare assurdo, ma è così, un volo ogni 6 minuti, cioè un volo vuol dire un decollo o un arrivo. Ovviamente sapete tutti che nell'aeroporto non ci sono degli aerei che rimangono lì, quindi per ogni volo che arriva ce n'è un altro che se ne va, quindi per ogni decollo c'è un atterraggio. Ci possono essere magari delle piccolissime disomogeneità, ma insomma negli aeroporti non c'è il garage dove gli aeroporti restano, quindi ogni aereo che arriva è anche un aereo che se ne va. Quindi in pratica un volo, o in termini tecnici vengono chiamati movimenti, un movimento ogni 6 minuti dalle 6 della mattina alle 23 della sera, considerato tutti i giorni, sia festivi che Natali, Capodanni, Pasqua e Ferragosti, non c'è feste. Un volo ogni 6 minuti, questo sarebbe lo scenario che si prospetta con il nuovo aeroporto. Lo capisce anche mio figlio, che ha 3 anni e mezzo, che dietro a tutto questo c'è ovviamente anche un enorme impatto da un punto di vista dei gas climalteranti, tenendo ovviamente conto che gli aerei viaggiano utilizzando fonti fossili e tutto il resto, insomma, tutti i ragionamenti, tutti i discorsi, tutte le speranze legate alla possibilità che gli aerei utilizzino altre fonti di energia sono ad oggi meri progetti. E poi capite bene che, insomma, nel momento in cui si pretende di allargare, espandere ogni aeroporto, anche se gli aerei andassero a batterie elettriche, in queste batterie, insomma, qualcosa ci va messo, dal famoso coltan al famoso litio, insomma, va reperito, va trovato, va spostato, va rigenerato, le batterie poi andrebbero comunque smaltite, quindi non crediamo che, insomma, siamo di fronte a uno scenario che certamente ha il suo impatto. Questi argomenti sono stati più che compresi dal complesso di soggetti, di soggettività che hanno dato vita a Firenze al Fridays for Future, e quindi li abbiamo visti fortunatamente venire in corteo. Volevo solo sottolineare, recuperando la lunga parentesi, che sono stati nell'articolo accostati, come diciamo dei big, delle personalità, alla presenza dei sindaci. La Piana, continua l'articolo del Corriere, La Piana non è la discarica di Firenze, ha detto Sebastiano Campani, di no inceneritore e no aeroporto, nella conferenza stampa sotto Palazzo Vecchio. Vogliamo bloccare la nuova pista perché quell'area è già inquinata e perché è incompatibile con il parco della Piana. noi siamo per la riduzione dell'aeroporto di Firenze, non c'è più lo spazio fisico. Non solo no alla nuova pista, ma anche ridimensionare Peretola, puntando su Pisa. Esiste uno studio di RFI, cioè della rete ferroviaria, secondo cui con 50 milioni, poco meno, si può creare una linea veloce ferroviaria Firenze-Pisa, che in 35 minuti collega il capoluogo toscano all'aeroporto di Pisa. Questo è tutto riportato, virgolettato, alla manifestazione prevediamo grande partecipazione, ha detto anche Sandro Targetti, ci saranno tanti ragazzi e studenti. A Firenze non c'è spazio per il nuovo aeroporto e la nostra è una lotta contro i cambiamenti climatici, senza considerare che la nuova pista, che con la nuova pista anche il polo scientifico di Sesto andrà in crisi. Questo insomma è in sostanza l'articolo del Corriere Fiorentino, che riporta più o meno in maniera direi precisa, senza distorsione alcune, quello che è la manifestazione. Ci sono poi altre prese di posizione, ci saranno esponenti di partiti e liste da Potere al Popolo, che annuncia la partecipazione del candidato a sindaco di Firenze Antonella Bundu, a Rifondazione Comunista, da Firenze Italiana a Fridays for Future, ancora, che ancora una volta messa in mezzo ai politici, ai candidati sindaci, insomma vabbè. Ci sembra assurdo che l'amministrazione comunale di Firenze e la regione toscana, che hanno espresso supporto per la manifestazione di Fridays for Future del 15 marzo, continuino a sostenere un progetto così. Da Pisa, gli amici di Pisa, associazione di piccoli azionisti di Toscana Aeroporti, aggiungono: pisani e fiorentini sono uniti sotto un'unica bandiera contro Peretola. Non è un miracolo, è buonsenso. Non è possibile spendere i soldi dei cittadini per inutili doppioni. Il Galilei deve essere la porta della Toscana, migliorando la linea ferroviaria che unisce Pisa con Firenze. E sulla manifestazione Roberto Naldi, ecco appunto la citazione di quello che dicevo, che quella frase insomma polemica che ha dato poi anche il pretesto al sindaco Biffoni per rimarcare la sua presenza in piazza e le sue dichiarazioni giornalistiche all'inizio del corteo. Roberto Naldi dice, vicepresidente di Toscana Aeroporti, diciamolo, polemizza: mi chiedo quali altri obiettivi può avere ad esempio il sindaco di Prato a partecipare al presidio quando l'aeroporto non ha alcun impatto. Forse è preoccupato per le caverne dei pipistrelli, che sono l'unico aspetto che la VIA e la conferenza dei servizi hanno identificato come problematica per il comune di Prato. Mi auguro che sabato ci sia bel tempo, così si fanno una bella scampagnata. Questa è la dichiarazione del Roberto Naldi, presidente di Toscana, vicepresidente di Toscana Aeroporti, perché presidente tutti lo conoscete, Marco Carrai, amico di Renzi, insomma, addirittura candidato a fare il console di Israele, semmai ci sarà un consolato, insomma, onorario a Firenze. E questo invece è il vicepresidente, sentite, ecco, lo spregio con cui parla di una criticità ambientale che è quella dei pipistrelli, perché d'altronde insomma l'arroganza di questi soggetti è fatta così. Quando sappiamo che le problematiche ambientali di un'infrastruttura certamente immensa come un aeroporto intercontinentale, quale sarebbe quello che si propone, sono certamente conseguenze multispecie, nel senso riguardano molte specie viventi, non solo gli umani. Questo è il loro modo di esprimersi, di parlare, di considerare la natura e anche insomma non meno dei pipistrelli valgono per queste persone molte vite umane, insomma, in un contesto storico che ci mette di fronte a problemi enormemente seri come per esempio quello delle migrazioni che oggi dobbiamo necessariamente, possiamo senza ombra di dubbio, ricondurre anche a mutamenti climatici che hanno già cominciato a colpire in modo forte popolazioni e territori che hanno meno risorse per distribuzione delle risorse sul pianeta, che è da molti secoli una distribuzione diseguale, una distribuzione che chiaramente non può ignorare quello che è stata l'esperienza storica del colonialismo, l'esperienza storica di fenomeni come la tratta degli schiavi, di esperienze storiche come i tentativi di decolonizzazione, che però poi sono stati in qualche modo recuperati dall'arroganza, dalla potenza e dalla forza del mercato, alterando diciamo, gli scambi commerciali, utilizzando il commercio piuttosto che la guerra, o la guerra piuttosto che il commercio, per mantenere delle gerarchie mondiali tra potenze, tra nazioni, tra aree geografiche. E quindi, insomma, sicuramente anche le migrazioni oggi contano, insomma, poggiano, scusate, non contano, ma poggiano su mutamenti climatici e su un assetto e su una disuguaglianza globale che è sempre più forte e sempre più violenta. E insomma, di fronte a tutto questo, noi abbiamo una parte di umanità che pretende o pretenderebbe di essere permanentemente ed in modo super efficiente connessa per i luoghi del mondo che vuole o visitare per diletto o per piacere, o nei quali recarsi per fare business, e invece un'umanità alla quale si nega anche l'accesso più elementare alle risorse utili alla propria sopravvivenza, che quindi vengono respinti, che vengono contenuti, che vengono affondati, o che insomma vengono controllati come flussi di cose piuttosto che come spostamenti di persone. Insomma, in questo credo che l'arroganza, il modo di parlare dei pipistrelli fatto da Roberto Naldi non sia un'affermazione che si possa limitare ai pipistrelli, ma che si possa, come ho fatto, estendere a categorie umane le cui vite valgono certamente meno. Insomma, quindi questo è il tono con cui queste persone descrivono e parlano dei loro progetti. Insomma, queste parole, queste dichiarazioni di Roberto Naldi sono state chiaramente la vigilia della manifestazione e certamente sono state notate per forza di cose notate da tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione. Non poteva che essere così. Per i sindaci certamente hanno valso due volte di più, anche perché appunto si parlava di un sindaco, e per Biffoni hanno valso tre volte tanto, tant'è che praticamente, come ho detto all'inizio trasmissione, la sua partecipazione alla manifestazione è stata solo un momento pubblico di risposta a queste dichiarazioni dal concentramento del corteo che poi non ha seguito e al quale non ha partecipato. Un altro articolo, sempre prima della manifestazione: domani la marcia contro la nuova pista con 60 associazioni. Partecipano anche i ragazzi di Fridays for Future, mentre Naldi, Toscana Aeroporti, si chiede perché c'è anche il comune di Prato. Questo è l'articolo di Ilaria Ciuti di Repubblica, se non sbaglio, scusate perché ce l'ho in bianco e nero e veramente so un attimo di difficoltà, mi pare sia la Repubblica, ma insomma, se mi sbaglio, se non è Repubblica è La Nazione. E Ilaria Ciuti dice: no aeroporto, sì al parco per tutti, e la manifestazione lanciata per domani dal presidio, non cineritore e no aeroporto, cui aderiscono non solo una sessantina di comitati e associazioni, il collettivo di scienze del polo universitario di Sesto, gli architetti e gli urbanisti di Alterpiana, ma anche le forze politiche anti-aeroporto e i sei comuni che sono ricorsi al TAR. Insomma, fino a qui niente di nuovo, è una restituzione onesta di quello che era stato dichiarato in conferenza stampa, di quello che qualunque giornalista poteva evincere guardando i nostri media, quelli autogestiti, insomma, pagine Facebook, social, guardando, seguendo Twitter o i siti degli organizzatori, dei promotori o degli aderenti della manifestazione. Si dà poi il percorso, la parola d'ordine è no allo sviluppo dell'aeroporto, ma anche il ridimensionamento dell'esistente, spiega uno degli organizzatori, Sebastiano Campani. Il percorso del corteo è emblematico: dal polo che difendiamo, dall'ampliamento dell'aeroporto fino a Peretola, per dire agli abitanti che lottiamo anche per loro, per ridurre lo scalo attuale. La legge è fisica, un grande aeroporto in un luogo così abitato non ci può stare. Noi vogliamo il parco della Piana, i trasporti che servono agli abitanti e non un aeroporto che non serve, con Pisa e Bologna a due passi, con l'asfalto su mezza piana e neanche altri turisti che sono già troppi. L'ampliamento serve solo a Toscana Aeroporti. Molto chiaro, molto diretto, direi molto comprensibile il nostro Sebastiano, che ci ha messo molto la faccia e molto la voce nei giorni precedenti la manifestazione. L'articolo quindi in questo senso, ripeto, resta corretto. Quanto a Friday for Future, leggiamo in coda: l'assemblea ha deciso di partecipare per disincentivare tutte le nuove opere che contribuirebbero ad esacerbare il cambiamento climatico. La nuova pista, dice Fridays for Future, è in disaccordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 e rappresenta lo stesso sistema miope ed egoista che si rifiuta di invertire la rotta, promuovendo un uso massiccio delle fonti fossili tramite l'aumento enorme del numero dei voli. Questo era l'articolo del 29. E certamente c'è appunto da segnalare, per quanto ci riguarda, come è già venuto fuori in entrambi gli articoli che abbiamo letto, le dichiarazioni di Sebastiano rispetto al ridimensionamento dell'attuale scalo di Peretola, che è forse il principale elemento nel quale c'è una certa, diciamo, se non vera e propria tensione, comunque una discussione aperta all'interno di un fronte più composito e più ampio, come abbiamo visto, che va dagli amici di Pisa per arrivare ai sindaci fino agli abitanti della Piana, e sul quale appunto c'è una certa discussione aperta, perché non tutti vedono le cose sotto la stessa prospettiva. Per quanto ci riguarda, come presidio non inceneritore in aeroporto, crediamo che quello del ridimensionamento dell'attuale aeroporto di Peretola sia un elemento importantissimo e fondamentale, non solo per il rispetto degli abitanti di questi quartieri, che certamente non valgono meno degli altri e che negli anni hanno visto aumentare, se non propriamente il numero dei movimenti, perché non sono poi aumentati tanto i movimenti, quantomeno in una tabella che possiamo vedere anche nel sito di ENAC, che dal 2000 ad oggi ci fa notare come non siano aumentati tanto il numero dei movimenti quanto il numero dei passeggeri e quindi la grandezza degli aeromobili. Però insomma è un aeroporto che, come tante volte abbiamo detto, in questa piana fiorentina c'è nato male e cresciuto peggio, quindi va necessariamente messo all'ordine del giorno di una riorganizzazione dei nostri territori, anche questo ridimensionamento in termini di traffico, in termini di impatto del rumore e anche in termini di inquinanti nell'aria, perché appunto la piana, per tante ragioni e per tante, o meglio non per tante ragioni, ma come tante volte detto, per un fenomeno di mancata circolazione dell'aria, per una conformazione proprio orogeografica, fisica e appunto orogeografica, ha questo enorme problema di circolazione dell'aria, per cui soprattutto le polveri sottili, ma anche altri inquinanti, restano nell'aria e permangono e arrivano nelle giornate, quelle che magari sono più godibili da un punto di vista dell'uso degli spazi esterni, cioè di sole e in assenza di piogge, sono poi le più micidiali, perché le polveri restano nell'aria e quindi ce le respiriamo tutti, e insomma questo è quanto, e non si scappa. E d'altra parte invece un aeroporto come sarebbe quello di Pisa, potendo utilizzare il mare, da questo punto di vista ha un vantaggio, se così possiamo dire, geografico, che è evidentemente innegabile, sempre che il traffico aeroportuale, il traffico aereo, si sviluppi compatibilmente con le popolazioni e che quindi non vada a volare e a sorvolare la città per ragioni di profitto, per ragioni di risparmio o di guadagno, ma si utilizzi davvero il mare, riducendo in questo modo certamente l'impatto acustico, se non quello delle emissioni inquinanti, che certamente quello resta, che si voli su una casa o si voli su il mare, certamente quell'impatto delle emissioni c'è, però quello del rumore certamente meno. Ad oggi la situazione di Peretola è davvero insostenibile proprio per quanto riguarda l'impatto del rumore per i sorvoli a bassa quota. E uno degli argomenti che, per intrecciare le cronache e i fenomeni uno con l'altro, ci sembra importante rilevare è che i nostri, diciamo, avversari, cioè coloro che propongono il progetto e il sistema di potere anche politico che lo supporta, è quello, l'argomento occupazionale, cioè l'idea che non si potrebbe toccare in nessun modo l'aeroporto di Peretola perché ci sarebbe un indotto che va a farsi friggere e un'enormità di posti di lavoro che verrebbero persi, e questo è uno degli argomenti, diciamo, più ricorrenti e più, se vogliamo, anche che ha una certa presa popolare, giustamente, anche perché la questione del lavoro, la questione del reddito è una questione davvero importante e davvero seria. Però per incrociarla, la vorrei incrociare, spero virtuosamente, con voi, a partire uno da un dato numerico. Il dato numerico è che, contrariamente, o non magari non contrariamente, forse è più corretto dire diversamente, da quanto viene spesso citato da coloro che sostengono il progetto. Per quanto riguarda Peretola non si parla di migliaia di lavoratori, ma dal bilancio di Toscana Aeroporti del 2017 leggiamo con, diciamo, serenità, se così si può dire, che gli addetti dei dipendenti diretti di Toscana Aeroporti e non diretti, tenendo anche conto quindi dei numeri di Toscana Aeroporti Handling, quindi la società che è stata formata per precarizzare in sostanza i lavoratori del comparto movimentazione bagagli, però che è una controllata al 100% di Toscana Aeroporti, insomma i lavoratori tra due scali che sono stati integrati quando è nata Toscana Aeroporti, quindi tra lo scalo di Pisa e lo scalo di Firenze abbiamo 600 addetti, quindi non si parla di migliaia di lavoratori ma si parla di 600 addetti. Certamente a questi ci possiamo senza ombra di dubbio aggiungere quei commessi che lavorano nei duty free, nella galleria commerciale, quelli che certamente movimentano, diciamo, i passeggeri una volta usciti, i noleggi. Ci sono certamente senza ombra di dubbio delle attività collegate, ma si parla di 600 lavoratori di Toscana Aeroporti tra Pisa e Firenze. Tenendo conto che il maggior numero di voli e l'aeroporto più grande ad oggi è Pisa, il numero di lavoratori coinvolti dalle dipendenze di Toscana Aeroporti su Firenze sarà, insomma, è nell'ordine delle centinaia. Ammettiamo che siano metà e metà, siamo nell'ordine di 300 lavoratori, anche meno. Questo è le proporzioni. Come ho detto, il tentativo di intrecciare le cronache è questo, mentre l'argomento occupazionale rispetto all'ipotesi di ridimensionamento di Peretola diventa una cosa improponibile, sappiamo invece che ci sono altre vertenze che numericamente sono significative e che però in nessun modo vengono prese in considerazione o che hanno uno spazio mediatico e giornalistico assolutamente più piccolo, assolutamente meno rilevante e che non vanno a costruire quel discorso pubblico che invece si costruisce ogni qualvolta si parla di grandi opere, di medie opere e si parla di lavoro ad esse connesso. Solo in questo mese ci sono nella piana fiorentina delle vertenze di lavoratori aperte, dei posti di lavoro a rischio, non da poco. Le andiamo a vedere in alcuni articoletti presi neanche dalle cronache ma guardandoli su internet, e sappiamo per esempio della situazione della Sirti, un'azienda che si occupa di telecomunicazioni, per la quale andiamo a leggere da Firenze Today il 4 marzo di quest'anno. Ovviamente ci dice: i sindacati hanno indetto una settimana di sciopero tra l'11 e il 15 marzo, su tutto il territorio nazionale. Di nuovo in sciopero dalle 8 alle 10 di stamani, era il 4 marzo, non ci importa il giorno, e in assemblea davanti ai cancelli della sede i 60 lavoratori della Sirti di Calenzano, contro la procedura di licenziamento collettivo che si è aperta il 21 febbraio scorso, che riguarderà 833 dipendenti in tutta Italia di questa azienda che è nel settore delle telecomunicazioni. Poi l'articolo prosegue, ma insomma qui ci limitiamo a questo dato. Calenzano, 60 posti di lavoro a rischio in una vertenza nazionale che ne vede a rischio 833. Questa è la Sirti di Calenzano. Ce n'è un'altra di questi giorni, neanche tanto lontana appunto nel tempo, perché è appunto della fine di marzo e degli inizi di aprile. I lavoratori in presidio permanente in sciopero della fame da ieri, dopo essersi attrezzati con sedie gazebo. È drastica la decisione dei dipendenti della Bagnolo SRLS di Calenzano, e a lanciare l'allarme sono i sindacati. Anche qui siamo a Calenzano, questa volta i lavoratori sono meno di 60, sono 25. Attraverso una nota la CGIL ci informa: questa è la situazione estrema che si sta verificando davanti ai cancelli della Bagnolo, ditta di Calenzano che si occupa di pronto moda e stireria. Sono circa 25 lavoratori dipendenti, tutti stranieri di 5 nazionalità diverse: Afghanistan, Bangladesh, Costa d'Avorio, Senegal e Pakistan. Sono insomma in sciopero della fame, sono insomma mobilitati, c'è anche il sindacato, quando si dice il sindacato sui nostri territori si parla della CGIL, e questi sono altri 25, sommati ai 60 di prima, siamo già a 85 lavoratori. C'è poi un'altra vertenza che si è nuovamente riaperta, perché si era aperta anche negli anni precedenti, che è quella dei lavoratori di Cavalli, ex Roberto Cavalli, perché insomma il marchio si è andato a frantumare da un punto di vista commerciale, spacchettare, andare in vendita, ci sono entrati di mezzo dei fondi di investimento, come quasi sempre avviene, c'è questa mescolanza mefistofelica, se mi concedete il termine aulico, tra finanza e capitale produttivo, capitale finanziario e capitale produttivo. Questa distinzione che nel dibattito degli anni 90 e dei primi del 2000 vedeva anche un po' dei settori, anche in qualche modo della sinistra, se vogliamo, se non proprio anticapitalista, però se vogliamo garantista sul mondo del lavoro, vedeva contrapporre coloro che sostenevano il capitale produttivo buono al capitale finanziario cattivo. E purtroppo la storia degli anni che si è andata poi consolidando negli anni 2000 ci mette ad oggi, che siamo ormai arrivati al 2020, dopo una ventina d'anni, di fronte a una realtà che è ben più triste e complicata, nella quale finanza e capitale finanziario e capitale produttivo non sono in contraddizione l'uno con l'altro, ma si intrecciano al punto da non poterli più distinguere. E quindi insomma questo è quanto. Per Roberto Cavalli siamo a sciopero e presidio lunedì 1 aprile, sciopero e presidio lunedì 1 aprile alla Roberto Cavalli dello Smannoro, con presidio a Firenze in Piazza dell'Unità. A quell'ora, infatti, alle 9:30, i sindacati saranno in regione a Palazzo Cerretani per un incontro dell'unità di crisi sulla vertenza. Che succede? Niente, la richiesta delle maestranze è quella di scongiurare non solo il rischio di una cassa integrazione, ma anche tutte le conseguenze che questa potrebbe comportare. Non saranno infatti accettate soluzioni che comportino decurtazioni salariali, anche minime, dei lavoratori e delle lavoratrici. Chiediamo quindi che chi in questi giorni sta decidendo sul futuro di oltre 270 famiglie sia consapevole del fatto che la gestione del futuro di un'impresa devono necessariamente passare attraverso il buonsenso ed un comportamento eticamente corretto. Poi l'articolo continua e va avanti, ma volevamo arrivare a questo. Stiamo parlando di 270 lavoratori alle dipendenze di quello che era il marchio Cavalli, un marchio che tutti abbiamo conosciuto nella moda, che sicuramente è ancora in qualche modo apprezzato, e però insomma siamo a rischiare 270 lavoratori. 270 lavoratori da Roberto Cavalli, 25 alla Bagnolo SRLS, 60 alla Sirti di Calenzano, e questa è solo la situazione di questi 25 giorni, 30 giorni che vi ho preso in analisi, sempre nella Piana Fiorentina. Su queste vertenze c'è impegnata in qualche modo, a modo suo, certamente anche senza sterile polemica, ma con un senso vero di quello che è stato l'andamento della lotta di classe e del sindacalismo confederale e concertativo in questi anni, anche con tutti i suoi limiti, è all'opera la CGIL. CGIL che appunto, nonostante la piena consapevolezza delle proporzioni delle crisi aziendali, delle crisi che colpiscono i nostri territori e di tutto il lavoro che viene perso, di fronte alla proposta di questo grande aeroporto non riesce a dire un no certo, dice non dice sì, però non dice neanche un no certo, e resta ugualmente preoccupata delle possibili ricadute che ci sarebbero nell'eventualità di un ridimensionamento dell'attuale scalo di Peretola. Crediamo che l'argomento occupazionale non possa diventare un elemento di ricatto per i nostri territori, e ribadiamo e rilanciamo sempre, diciamo con il coraggio se vogliamo dell'utopia, ma dell'utopia possibile, che per un settore o per un progetto che si chiude o che non si realizza, ce ne potrebbero essere altri che si sviluppano e nascono, anche da un punto di vista del tentativo di coniugare ambiente, salute e territorio. Sto parlando in questo senso del Parco della Piana, della possibilità di sviluppare un parco che sia di tutela ambientale, di rigenerazione ecologica, ma anche di generazione di nuovi posti di lavoro e di nuove possibilità occupazionali legate per lo più alle possibilità agricole di questo parco che ci sarebbero e che potrebbero sviluppare filiere corte, filiere alimentari pulite, questo lo speriamo, ma soprattutto corte e di prossimità, certamente limitando l'impatto. Questo dovrebbe e potrebbe essere un nuovo indirizzo da imprimere ai nostri territori, piuttosto che quello della accoppiata grandi opere redistribuzione che abbiamo constatato in questi anni quanto sia falsa e quanto in realtà si regga su il contributo pubblico e sul principio sacrosanto al capitalismo non solo italiano della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite. Con questa settimana abbiamo ripercorso la manifestazione del 30 di marzo e rilanciamo ancora appunto gli appuntamenti, le prossime iniziative anche di questa lotta. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!